fanciulla m'ascolta, il tuo signore sarà domani, forse solo al mondo, non lo cercare che giova al Poiché s'ha preso stanza, Thank you.

del buon dì. D'un gaio rosignuolo la voce mi svegliò. Thank you. Thank you. per me il sonno. No, non discorderò, mi troverò, mi sognerò. E nessuno mai più, ormai per me come il sole sei tu, lontan da me morir d'amor, perché sei tu che m'hai rubato il cuore. Ti dico tante cose, se il vento lieve t'accarezza, un profumar di giovinezza mi fa tremare. La notte io sogno un remando di te. dormí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Granada, tierra ensangrentada, sentadas de toro. Mujer que conserva del brujo de los ojos moros. El señor verde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, tu rosa manzana que me habla de amor. Granada, valora cantadas en coplas preciosas, con pelo arrabosa que darle un ramo de rosa, de rosa de suave fragancia que le diera el marco a la Virgen Morena. De sangre y de sol. De rosa de suave fragrancia que lleve en marco la Virgen Morena. Oh, Portami via con te, tu che conosci tutto. tutte le mie pene, mille che ancor ne voglio tanto bene. Sotto le stelle chiare, forse ritornerà l'amore. Vento, vento, portami via con te. Le stelle chiare, forse ritornerà l'amore. Vento, vento, portami via con te. Sussurra il vento come quella perché non torni e primavera. Bellezza viola e la voluta di viarne i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni possente va. Amore fra i codici più caldi baci avrà. 到歌舞剧场，我是古月。接下来请欣赏1988年6月多明戈与凯瑟琳巴特尔在东京音乐会的精彩现场。列文指挥梅特罗波利坦歌剧院管弦乐团担任器乐部分的演奏与伴奏。音乐会的曲目有命运之力序曲、歌剧茶花女中的二重唱、离开巴黎的日子、唐帕斯奎莱先生中的咏叹调、姑娘的秋波、拉美摩尔的露西亚中的咏叹调、你张开了升天的双翼、爱之甘醇中的咏叹调、亲爱的酒、意大利女郎在阿尔及尔的序曲等，下面请连续欣赏。

Oh! felice de raccogliete voi. C'è sovellina il breve foto quacciaro abbandonarmi vuoi, perché la vita è orrendo peso, l'universo intero è un deserto per me senza oggi tutta via splende il castello, ma scarsa fu la notte al tribuno. In rabbia mentre mi strutto in disperato pianto, tu ridi esulti accanto al felice consorte. Tu dalla gioia in seno, tu dalla gioia in seno, Mi spento il vero chi muore.

prova di soffrir premiero, dimenticarlo io spero. Comunque l'antico fuoco si estinguerà fra poco. Ancora un giorno solo e il cuore guarirà. Domani avranno per me.